Il bilancio è che ad oggi siamo circa 50 associazioni che ci frequentano e che dovranno trovare una collocazione. 70 eventi tra i più disparati che si praticano durante l'arco di un mese, quindi una media, diciamo, calcolata così a spanne. E una esigenza dei cittadini del quartiere di uno spazio che non ci sarà più, uno spazio dove potevano esercitare la possibilità di spendere in modo alternativo al mercato contadino, di venire a fare la loro festa di compleanno, la loro riunione di condominio, partecipare a un evento, la presentazione di un libro, musica, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo è il bilancio che abbiamo creato, una comunità attraverso due pratiche sostanziali, quella dell'affidamento dello spazio in modo autonomo per l'associazione che ne faceva riunioni o quello che sia, e con le coprogettazioni. Con alcuni di questi soggetti noi abbiamo fatto dei percorsi insieme. Per esempio, con alcuni del mercato di Campi Aperti abbiamo realizzato un progetto di educazione alimentare che è durato con i bambini delle elementari per 4 appuntamenti. Abbiamo fatto il corso di italiano per stranieri del tutto gratuito, dove anche lì si sono integrate due comunità, quella del bengalese, delle donne della comunità bengalese e noi che attraverso il corso poi siamo entrati in contatto, perché si è chiuso questo corso con una festa organizzata da loro. Hanno introdotto nella nostra comunità anche gli uomini della loro comunità, i figli, quindi in qualche modo si è creato uno scambio. L'associazione Sopra i Ponti faceva assistenza agli immigrati durante le ore mattutine per le pratiche, la gestione delle pratiche. Ne abbiamo tante e nella nostra cartella abbiamo messo solo alcuni esempi. 300 immobili privati e pubblici inutilizzati a Bologna. Sì. L'associazione 20 Pietre quindi cerca casa. Esattamente. Cerchiamo casa con l'idea di non solo cercare casa come abbiamo fatto in modo originale, ma riproporre il modello. Il modello che è una logica dove lo spazio è il punto di partenza, ma da lì, con le pratiche dell'autogestione, del mutualismo, abbiamo sperimentato la possibilità di creare comunità che si scambiano tra di loro esperienze e culture, e quindi noi vogliamo lanciare questo modello a tutta la città. Adesso saremo in una dimensione che abbiamo definito con una sintesi 20 pietre diffuse, perché tra le realtà che ci frequentano già la solidarietà è scattata e ci daranno delle sedi in gestione temporanea, sicuramente delle dimensioni piccole, perché lo spazio che avevamo in gestione era molto ampio, parliamo di quasi 2000 metri quadri tra aperto e coperto, e quindi sicuramente la stessa modalità di 20 pietre andrà a mutare, ma siamo ottimisti che con la sollecitazione che stiamo facendo con questa campagna probabilmente troveremo, ma non solo troveremo degli spazi, ma troveremo anche degli interlocutori. E posso già dire che il primo interlocutore pubblico stamattina è stato il presidente del quartiere che ci ospita, Cipriani, il dottor Cipriani, col quale c'è stata una prima intesa su non solo accreditarci come realtà che ha praticato una socialità aperta e trasversale, ma si è dato disponibile a interagire con eventuali proprietari che vogliono stipulare un nuovo contratto con noi, quindi a porsi da garante e a sollecitare, come dire, con noi l'implementazione di questa, possiamo definirla, pratica, esperienza.